Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. No, io basta. Basta cosa? Basta. Ma siamo sempre, ma fai perché sempre i capricci. No, basta, perché domani è la puntata 200, no? Sì. Oggi quindi è la puntata 199. Giusto. E io faccio come i matti della barzelletta. Cioè? Quelli che, insomma, per uscire dal manicomio devono scavalcare 100 cancelli. Sì. Le scavalcano uno, due, tre, al 99esimo lo scavalcano e poi uno dei due dice no, sono troppo stanco, torno indietro. Ma fai così. E quindi vai via oggi. Oggi vado via. Basta. Oggi vai via. 200, torni indietro. Trago. Guarda che se si torna 200, indietro poi... 200, ma, 200 non si... ma non è oggi, oggi è 199, festeggi insomma, già la 200. Sono... Perché io sono sempre avanti, per me oggi non è giovedì ma è venerdì. Ho perché capito. Sono proiettato sul weekend, ma essendo venerdì la 200esima io dico ciao, me ne vado. Ciao. Va bene, ciao. Ciao. Dai, cappa, vieni qui, non fare capricci come al solito. Chiudono le scuole domani, no? Ma non è domani, è sabato che chiudono le scuole. Ma sabato anticipi al tutto. Massimo si va per festeggiare, sì, a scuola, ma no? Ma, quindi ma è noi no, chiuso, no è finito. Io, noi non si sa ancora che fine faremo, ok? In parole povere, siamo nelle mani della provvidenza. No, del provveditorato, semmai. A me cambia poco. Ma come funziona allora? Quando è che andiamo in vacanza noi? Perché non c'è so, la vacanza, sì. Ci sono due la possibilità. La scuola è perché c'è la vacanza che ha senso. Quando finiscono queste scuole ci saranno due possibilità. Allora, una è che ci trasferiscano in un campo estivo. Bello, bello. E l'altra è che rimaniamo qui all'asilo insieme ai figli dei poveri cristi che lavorano 365 su 365, no, 7 su 7, no, 24 su 24. Ma l'asilo no, io voglio andare almeno al campo estivo. Ma come l'asilo d'estate? Ma non dipende da noi, dipende dal provveditorato. Anzi... Dipende dal provveditorato. Dai, il campo estivo è bellissimo, sì, Drago. Capito. Si fa rafting, si fa trekking, certo. Si fa kitesurfing, bungee jumping, balconing, sì. Si fa, che ne so, feasting. Ma il feasting, ma capo, cosa stai dicendo? Ogni tanto ti meni con i compagni. Una scazzottata, no? Certo. Vabbè, si fa pissing. Ma come pissing, ma capo? Vabbè, ogni tanto ti scappa, no? Questo è molto divertente. E ora, bambini, ricreazione! Ci sono anche dei bambini più svegli, più intelligenti, lo vedi? Nel, lo si vedi vede, proprio, c'è il bambino Lele, per esempio. Il contratto l'avete fatto con me! Ha proprio no, una faccia sveglia, non l'abbiamo fatto con nessuno. Hai ragione. C'è il bambino Lele, parliamo un po' col bambino Lele. Sì, tu lo conosci? Quello lì, è nuovo. Bambino Lele? Non so. Dove sei? Fatti vedere, eccoti. Sono qua, ma io non parlo mai. Come no? Parli bene invece. Parli bene, dai. Allora, dici grande. Qualcosa. Allora, l'asilo, ti questo piace? Questo asilo nuovo, com'è rispetto a quello di prima? È bellissimo. È bellissimo. Devo aspettare un attimo che... E lui arriva da un posto di... appunto. Da un asilo privato, eh? Ah, quindi ecco è abituato perché. A tutto... oggi è il primo giorno e gli sembra tutto che vada... Però vedi, io senza saperlo l'ho individuato subito, eh? Bambino intelligente, sveglio, sì, dell'asilo privato. Con la frangetta agli occhiali. Si vede, si vede, sì, insomma, sì, è un bambino sveglio, mica come quello lì. Vabbè, va bene, insomma. Allora, bambino Lele, come facciamo a sapere che si chiama Lele? Vabbè, vediamo una maglietta. C'è la scritto sul grembiule. I am Lele. Ok. Tu niente. Non ce l'hai il bambino Alberto. Perché tanto tutti sanno chi sono. Non mi capisco di andare in giro con il mio nome sulla maglietta. No, c'hai la A come la lettera tutti scarlata. Tutti sanno chi sono. Adulto. No, lui è anarchico. Così. Sì. Sappiamo. Bambino Alberto, spiegagli qualcosa dell'asilo, infatti, come dai. Si fa, insomma. Vabbè, ma sono mica tuo fratello maggiore. Vabbè, ma fai come, insomma. Allora, questi due sono di una radio che vengono qui tutti i giorni per spiegare un po' com'è l'asilo dei bambini. E parlano con me, mi fanno le domande, mi chiedono della mia famiglia, cosa faccio, cosa mi piace. E magari oggi lo chiedo anche a te, ecco. Hai capito? Lele, hai niente. Capito? Lele? Ma sì, ho capito. Allora, c'è cominciamo. Allora, sì, no, il no, ma no, come si chiama? Ma quelli della scuola privata, non è che puoi buttarli, devi insomma certo. Incasellarli. Infatti, nel regolamento, nel palinsesto, se sanno butti, che c'è... Se li butti nel branco lì, nella scuola pubblica, ci va un attimo di, no, giusto, di ambientazione. Ci vuole il pelo per stare qui. Però, bambino Alberto, lascia parlare il tuo amichetto. O presunto tale. Dai, allora. Qui, amichetto, ancora. Vabbè, allora parlaci dell'asilo privato. Com'è? Com'era, anzi? Lele? Lele, attenzione. Allora, ma è la prima volta. Ma non è che si mette a parlare bocca? Subito. Ma cosa? Adesso te li congelo. Dopo no, come Gildo? Ma no, cosa mischi? Gildo, vabbè. Cosa mischi? Dove veri... andare a fare la pipì? Dove la messa? Quelle cose lì, no? Beh, ma Gildo che io... Mi sto qua a perdere tempo io. Per esempio, non so, i finocchi cotti. Lui non lo sa che il menù fisso della mensa è non è come cotti, nella scuola privata che c'era. Magari a lui piacciono. No, chiediglielo, no? Voi psicologia proprio... Ma no, psicologia... Lasciatelo andare in mensa che scopre la sua vita da solo. Poi magari gli piacciono, invece se già gli dici... Uè, attento che ci sono i finocchi cotti. No, infatti, no, io voglio chiedergli, ti piacciono? Magari li mangiavano già nella l'asilo privato, eh, no? Sì. Come? Vabbè, dai. Ma gratinati privato, magari, no? Ma mangiavate? All'asilo privato! C'era il catering, mangiavamo cose... Tipo, non so, cosa c'era? Cosa c'era? Sushi. Il sushi. Poi? Il sushi è... Poi te il pesce crudo. Il pesce crudo? Giapponese. Ma, non vabbè, ma tu non lo sai, sta roba qua. È roba cara, quella roba che costa. Infatti, tu infatti. Il massimo cinese. Quindi il catering offriva, tra le altre cose, anche i finocchi cotti. Sì, c'era almeno un vegetariano per i bambini vegetariani. Vedi, vegani, tutto quanto. Lì un'altra vita. Sì, un'altra vita. Sì. C'era anche il brandy. Alla fine. Il digestivo. A lui va, mi sa, a lei mi sa che gli piace il brandy. Hai voglia. Ma lascia rispondere lui, no? Ti piace il brandy? Sì. Vedi. Gli energy drink. Vabbè, forse gli energy drink è un argomento sul tu quale tu sai possiamo... che cos'è l'energy drink? Sono quelle... La roba che si beve che poi... La roba energetica? Vabbè, dice certo, il nome, sì. Energy drink, cioè la bevi e ti dire che è intelligente drink. Però. Non so, bambini a volte gli danno anche i downer drinks, cioè gli danno insomma le cose per brandy, star bravi, appunto, tipo il brandy, sì. No, questo Lele, il bambino, e parla un po' così, non... risponde sì una cosa, poi non poi spiega. Ma è timido, no? È appena arrivato. E io stavo qua a perdere tempo tutta la mattina. No, ma... Cioè, almeno, deve stare 4 anni, non è che domani va via! Adesso è venuto sta fissa del bambino Lele, lui solo perché arriva da scuola privata e lo vuole privilegiare. Sì, ma hai visto cosa sta facendo? No, bambino Lele, ma ti sei acceso una sigaretta? Ma cioè, alle scuole private ti lasciavano pure fumare, brandy e sigaretta. appunto. Questo qui è un altro buono. No, vabbè, ma insomma. Gildo! Guarda che ti mando lì un bambino! Fai il trattamento speciale! Senti, ma cos'è? Ma... Ma come? Ma come quando vai a cambiare le gomme, no. Ti guarda, vai da un mio amico. Quando vai in galera, trattamento speciale. È come dire, è uno che nella mia manica, trattalo come si deve. Fai quel lavoretto che. Quello cos'è? Lì, quello che. Capito? La solita storia è quella del. Cosa? Ma cos'è? Cosa? No, fra me e Gildo, no? Sì, ma cos'è? Un raggiro. Cosa sempre. Questo qui era una scuola privata. Qui c'era il grano. Tu, amico, vuoi le merendine? Ma tu gli offri la merendina, ma sì, ma... quella con la catenina, che lui la prende e poi non riesce a portarla via, no? Poi domani mattina fa la scuola lì dell'urgenza e sui genitori per scuola privata di 50 euro. Ma è carissimo! Ecco. Recentemente sul venerdì di Repubblica il bambino Curzio Maltese ha scritto un pezzo periodico. Periodico, cioè che si ripete indefinitamente, una roba così periodico. Diciamo che si che ripete. È su un periodico, no? Perché sì, è su un periodico però... ed è un pezzo periodico, nel senso che si ripete indefinitamente la dialettica del bambino maltese. In realtà il pezzo periodico è uno di quei pezzi che ogni tanto scrivi perché scarseggiano gli argomenti. Ogni tot di mesi tiri fuori il pezzo, la lo rinfreschi, gli metti 2 o 3 nomi nuovi e sei a posto. In questo caso l'argomento è il degrado della lingua italiana. Argomento nuovissimo. Nuovissimo e sorprendente soprattutto. E infatti è un pezzo periodico, uno di quei pezzi così. Insomma. Ah, perché Curzio Maltese l'ha già scritto altre volte. Sì, magari non uguale, ma più o meno. D'altra parte il degrado della lingua italiana è uno degli argomenti tipici dei pezzi periodici. Sì, la bronzatura. La bronzatura, la dieta, il traffico, lo smog, il futuro della sinistra, il testamento biologico. Certo. Prima o poi c'è bisogno di un articolo su quello, quindi stavolta il bambino maltese ce l'ha con la lingua parlata dai politici. Vabbè, ha ragione. Senti Di Pietro. Nell'elenco previsto dal comma 1 di cui diceva lei prima c'è tutta l'attività preparatoria e conseguenziale. Cosa vuol dire questo? Che conoscendo Berlusconi, fatta la legge e trovate l'inganno, questo pure quando deve andare al cesso già è un'attività preparatoria delle attività dei ministri. Hai capito? Dai, insomma, De Gasperi, Togliatti, Berlinguer, mica parlavano così. Vabbè, come parlavano De Gasperi, Togliatti e Berlinguer? Parlavano così. In questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. sentito il grande De Gasperi? Vabbè, ma dai, capo, con di questo colpo, discorso si è fatto dare i grani dagli americani. Ah, hai sì? capito come li ha convinti? Al G8 questo qua è il discorso che ha preceduto il piano Marshall. Cioè, mica. Io ci credo che andava lì a parlare bene. I nostri politici di oggi mica hanno queste platee così importanti. Al massimo vanno porta a porta. Vanno a porta a porta. No, no, vanno porta a porta a vendere balle come quelli del Folletto. Questo è molto divertente. Sì, Drago, ma non è che basta sentire un parrucchiere che dice queste è molto divertente per giustificare battute così orrende. Vabbè, cioè, scusa, quelli del Folletto cosa? 199 puntate. Se non vi va bene, pagatemi un battutista. No? Ma chi pagatemi? Con chi parli? Ma voi che vi lamentate delle battute, scusa. No, sono io che mi lamento. Vabbè, allora, trovami o trovati un battutista, insomma, facciamo così. È difficile trovare un battutista libero. Almeno quanto trovare un battitore libero. Orrido! Orrido! Orrido! Sì, ma smettila, dì l'indirizzo, la mail. Orrido! Orrido! Ora, se non ridete ascoltando Chiedo Asilo, rido! Scriveteci chiedoasilo@radio24.it. No, mandate le battute. E appunto, rido! E magari vi assumiamo come battutisti. Rido! Visto che voi fate ridere un casino, vediamo. Tito! Dai, aspettiamo. Tito! Dai, K. Guarda che qui è la fine.